quali sono i miei gusti musicali, come ho imparato a suonare la chitarra, che cosa ne penso delle canzoni italiane, che cosa ne penso delle canzoni americane, inglesi, perché le mie canzoni, perché le canzoni che ho scritto hanno avuto, hanno delle particolarità che non ricordano molto spesso il genere cosiddetto all'italiana, ma hanno degli agganci con un genere cosiddetto all'inglese o all'americano. Ve lo spiego subito. Io fin da bambino, da 14-15 anni, quando ho cominciato a prendere la chitarra in mano, ho ascoltato dei cantanti particolari. Mi sono capitati in mano dei dischi di cantanti particolari. Il primo cantante che ricordo è, a parte Elvis Presley, che aveva avuto anche un certo successo presso di noi in Italia, ma cantanti dei quali in Italia forse sentivo parlare solo in un ambito molto ristretto, mi ricordo che mi è capitato in mano un 33 giri di Ray Charles. Io ho scoperto questo Ray Charles, una cosa meravigliosa. Ray Charles lo conoscerete senz'altro, ma vi ricorderete forse Straordinario rock and roll, un rock and roll di un certo giovane musicista, si chiama Lucio Battisti, non lo conosciamo ancora molto bene, è da poco che sta incidendo dei dischi. Questo era il suo secondo LP, anzi il primo LP in sostanza, perché quelli precedenti erano delle antologie di 45 giri. Non era un caso che fosse l'album che lui in quel periodo amasse di più. E qui si parla anche di Palestina. Davanti a un distributore automatico di fiori all'aeroporto di Bruxelles, anche io chiuso in una bolla di vetro. Cos'era? È il titolo. Qui si riconosce il finale di qualche canzone che aveva già inciso. Ecco, sentite l'organo di Dario Baldambembo che finisce e conclude questo brano. Sì, torniamo di nuovo al Non Amore. Questo era l'amore e questo è il Non Amore. Ci sono delle voci in sottofondo sui due canali stereo, se voi andate a sentirli in cuffia. E c'è Lucio che dice: che fa, se ne andiamo? No, ve ne andiamo, entriamo, entrate. E poi questa storia non la conoscevate? No, ma dai. È tutta una questione di banane. Sì, sì, sì. Supermarket giovedì. Tu lavori lì. Direttore, tu lo sai. Dimmi dove è lei. Non c'è. Comunque qui non c'è. Comprerò le banane, le banane. Comprerò ma però dove è andata stamattina non lo so. Scatolette colorate, carni rosa congelate, c'è di tutto intorno a me ma lei non c'è. No, supermarket venerdì, tu lavori lì, dimmi ieri come mai, tu non eri qui, tutta colpa della frutta, ne ho mangiato troppa, e così sono stata a letto giovedì. Anche tu ami tanto le banane. E il pubblico lo ha scoperto a Teatro 10 come suonava la chitarra sto ragazzo. Siamo all'inizio degli anni 70, 1970, 1971 più o meno. Un ragazzo nuovo, appena così arrivato, ce l'hanno appena mandato dalle case discografiche. Stiamo così scoprendo il suo primo album ufficiale, Amore e non amore. Anche questo brano ha un titolo piuttosto lungo, che ormai, per brevità, sui siti non viene mai più citato contemporaneamente, completamente. E il titolo è Una poltrona, un bicchiere di cognac, un televisore, 35 morti ai confini di Israele e Giordania. Thank you. credo che questo disco non andasse in onda da da quanti anni, non lo so. Poi nei dischi di Lucio Battisti una buona pratica è quella di ascoltarli una volta togliendo il canale destro, una volta togliendo il canale sinistro, poi rimettendoli insieme. Ad esempio questo finale che non c'è e che poi risale. Oggi questo verrebbe chiamato un particolare progressi, tipo di progressi, no? E un giorno il signor Lucio Battisti andò in una radio e un po' una radio più o meno come questa. Era molto tranquillo, stava in pace, era solo, era buio, era forse una sera, un pomeriggio, non so bene, e cominciò a raccontare come mai la sua musica è così bella, come mai la sua musica è così, le sue canzoni sono così particolari. E lo diceva allora, dopo averle appena fatte. E noi lo ridiciamo adesso, dopo che sono passati 70, 80. Insomma, un bel po' di anni. E ancora le sue canzoni non hanno tempo. Cioè, allora qual è il segreto? C'è un segreto. Uno è Donovan, che è quello che stiamo ascoltando, Catch the Wind. Sentite questo gioco di chitarra? Aspetta, me lo faccio risentire dall'inizio, vediamo un po' se riparte. Non vi ricorda una canzone? Attenzione, non si tratta di plagio, attenzione, non si tratta di qualcuno che scopiazza. Si tratta di qualcuno che scopre della musica che in quel momento, in Italia, dove viveva, non veniva assolutamente ascoltata, e lui faceva delle continue scoperte e ci suonava sopra, scopriva gli accordi che usavano. Questo per quanto riguarda Donovan. Ma ce n'erano anche altri. I Moody Blues, Ray Charles, Elvis Presley, Beatles. But I may as well try and catch the wind. Ma da Donovan ha imparato parecchie cose. Io addirittura ho trovato frammenti di giochi di chitarra su almeno due canzoni. When rain has hung the leaves with tears, I want you near to kill my fears, to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Thank you. try and catch the wind. Sorrise quando se ne andò. Io l'amavo, solo questo so. Capito? Io credevo tante cose. Ma si tratta di prendere ispirazione, no? Di studiare le canzoni degli artisti stranieri, americani, inglesi, e soprattutto era potentemente affascinato, come avete sentito prima, un paio di canzoni di rhythm and blues, dal modo di suonare le chitarre, ma soprattutto era molto curioso di come erano costruiti gli arrangiamenti. Io sono sicuro che siamo molto simili in questo senso, io e Lucio, nel senso che andiamo a cercare proprio come è fatto quell'arrangiamento. Sentiamo, che ne so, Bobby Solo, Una lacrima sul viso, come è fatto quell'inizio, che cosa ci ha messo? C'è un violino, c'è un flauto, c'è un'orchestra, come è usata quell'orchestra, come è sistemata. Diciamo che questa qui sì, era una delle prime canzoni, ma anche probabilmente poteva essere anche un provino per qualche altro cantante. In quel periodo la Ricordi componeva dei long playing, e non tutte le scelte erano state fatte da Lucio in persona, ancora non si poteva molto, però voglio dire, questa canzone compare in un album di capolavori straordinari. Emozioni in teoria dovrebbe venire dopo Amore non amore, in teoria. Dovrei informarmi meglio, adesso nel tempo la confusione è diventata alta. I got a woman way over town that's good to me. E dovete sentire Lucio quando prende i brani di Ray Charles e li fa con la chitarra, straordinario, come Richard Anthony. Good to me. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Why she love me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Quindi pare che se uno si mette a studiare per filo e per segno come sono costruite queste canzoni e riesce a cantarle così come le canta Ray Charles, diventa Lucio Battisti. No, non è così. Ci si nasce. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses. Always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me.

they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you. E vabbè, la ragazza si è imposta, io non l'avevo minimamente calcolata, invece eccola qua, si è imposta, è qua, grande cavalcata dal vivo, tutti i ragazzi intorno a lui, Franz Di Cioccio alla batteria, Francone Musile di qua, lui al centro, Alberto Radius di là, Baldambembo laggiù, Baldam, e poi lui entra, eccolo qua. Tutti che hanno fatto sentire la loro voce all'inizio, ci sono. Comincia a cantare. Io sto già tremando d'amore. Entra il basso. Lei viene qui questa sera. Credo Giorgio Piazza. È solo una questione di ore, spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Al tamburello Flavio Premoli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Yeah. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Verrà o non verrà, lei verrà o non verrà, non verrà, non verrà, non verrà. Yeah. sfiorare i capelli col respiro del mio cuore. Le voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore, d'amore, d'amore, d'amore, d'amore. Siede vicino intanto che mangia di gusto la carne, il caviale ed il resto. La vedo in pigiama e lei si avvicina, e lei si avvicina, vicina, vicina, vicina, vicina, vicina. Dio mio no, Dio mio no. Cosa fai, che cosa fai? Dio mio no. Cosa fai, che cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? C'è poco da fare. C'è poco da fare. Intanto lui si guarda intorno, comincia a vedere chi è pronto. Yeah! Lo chiama? Conta adesso il 4. Dà un'occhiata a chi è pronto per entrare. Chi c'è pronto, Francone o Alberto? Baldan, Baldan, Baldan lo chiama. Eccolo. Che faccio adesso? Suono? Eh sì, suono. Metto le dita sul Lemmon, vado, eh.

Everybody telling me she's gone to my head. That Duquesne whistle blowing, blowing through another no-good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old... Siamo partiti da un giovane sconosciuto, un certo Lucio Battisti, the one we used to climb, che ci ha presentato il suo primissimo, uno dei suoi primissimi album, quelli veri. Perché questi si divertono un sacco a registrare? Senti che roba. Sono una marea di gente. Sarà l'alcol? Fumo? Le amiche in studio? Ma tu te credi che questi stanno a registrare insieme? Magari l'hanno registrato in un tristissimo studio. Non ci credo. Traspare un divertimento, un'anima. No, no, no, non credo. Beh, la creatività. Chi è? Madonna, gli inglesi come sono invadenti. Un attimo, stavo parlando. The Who? Pomposielli alquanto, eh? Già la fotografia del disco, questa lambretta in mezzo alla nebbia, con loro dentro gli specchietti. Quadrofenia, Who, Radio Centro Idea, Edit. Thank you. se una radio manda una musica così, tutti i nuovi musicisti che l'ascoltano diventano bravi. E l'ha detto Lucio Battisti. Io ascoltavo Ray Charles, i Moody Blues, i Beatles, i Rolling Stones, sì, anche. Soprattutto il rhythm and blues. Ascoltava tutto, tutto, non c'era nulla che non ascoltasse, era onnivoro. Ed è diventato, ha costruito quello che ha costruito, prendendo da ognuno le cose migliori. Se a una popolazione gli togli la possibilità di ascoltare il mondo musicale, perché a un certo punto perderà la conoscenza di qualcosa, no? C'è qualcuno che dice: quella è una bottiglia, no? E tu lo sai perché sai che quella è una bottiglia. Ma se non sai che quella è una bottiglia, è una forma a cui non sai dare un nome, no? E quindi è quello che succede a chi purtroppo si ammala di Alzheimer. Se invece c'è qualcuno che in qualche modo porta la musica in giro e la semina, la fa ascoltare, anche coloro che sono giovanissimi, che magari non si avvicinerebbero mai a questo tipo di musica, però sono sicuro che i giovanissimi si incuriosiscono, quantomeno fanno: che cos'è quello? Sembrava interessante. E c'è qualcuno che ti dice cos'è. E questa è la radio. Questa è una 12 corde. Adesso ditele a tutti gli amici vostri, quelli più giovani, che c'è una radio così, Bam bam bam bam. Ah, dopo viene. Ma fregato. Porto la chitarra, vado a prenderla? Ce l'ho di là, nello studiolo. Così provo a fare questo pezzo. È così che si comincia. Edit Selector. Something down. Rick Wakeman, Chris Squire, Steve Howe. Chi c'è la batteria? Non lo so, se Bill Bruford o Alan White. Mi pare Bill Bruford in quel periodo. E Ian Anderson. Dunque, in questi giorni sto facendo delle scoperte. Che non tutti i brani rimasterizzati che sono sulle piattaforme sono belli. Alcuni, non so come dirvi, alcuni sono diventati completamente privi di energia. È strano, è assurdo, eh? Ci sono dei brani che se li metti sul disco, sul vinile, sporchi, puliti, non viaggiano in un certo modo. Se chi ha lavorato alla rimasterizzazione non ha fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione del suono, ha solo separato i suoni, e tutti i difetti, tutte le cose possono uscire fuori, a volte diventano anche... freddi, ecco, questa è la cosa che ho provato. Per esempio, i nuovi remaster di Lucio Battisti, io non ho mai sentito il disco originale, però qualche volta che ho fatto un confronto con delle rimasterizzazioni di vari anni, sono rimasto legato alla prima masterizzazione, quella del 2003, mi pare. Il resto non riesce proprio a prendermi, a piacermi. Oh, scusate, c'è un signore che sta chiedendo permesso, excuse me. Sì, arrivo, un attimo solo, signore. Eccoci, siamo qua. No, non c'è bisogno che faccia tutta questa scena. Ma non c'è neanche bisogno che lei chieda scusa. Lei può entrare quando vuole. Dopo l'esperienza di The Lamb Lies Down on Broadway e un figlio appena nato, una figlia credo, con una copertina straordinaria del studio Hypnosis, e one, two, three, con quel mattacchione di Robert Fripp al banjo, Peter Gabriel a Radio Centro Idea. Again, I wanna be alone. Excuse me, please. I'm looking for last days. Soaking up the sin. Again, I wanna be alone. I wanna be alone. I wanna be alone. Leave me alone. I wanna be alone. Mi dispiace tanto non avere la copertina in mano per dirvi chi suona il trombone. Allora, le casse sono invertite, i canali. Il trombone suona di qua e invece qui suona di là. Come fa? Cambiamo i fili. Sì, sì. Invertiamo i fili. Perché sennò quando sei a tutto volume c'è la cassa che ti fa... va in controfase. Oh! Prove tecniche, le facciamo proprio dal vivo. Sì, cambiamo i fili. Sì. Aspetta, perché sento il trombone a destra. Wow! You and you and nothing more. Ammazza sti Yes, allora non erano solo progressive, sono riusciti a fare anche un pezzo dance. E qui siamo rimasti così con due scelte interessanti, una con gli Yes e l'altra con un personaggio che abbiamo sentito poco prima, ma che andando avanti nella registrazione ho saputo che lui per registrare i dischi non ama la cuffia, e lo capisco. Quindi ha un registratore a cassette messo laggiù in fondo, dal quale sente la base, e con questo così ha registrato questo disco che stiamo ascoltando, che era... So. Devo ammettere una cosa, essendo un fan sfegatato di Peter Gabriel che dir si voglia, questo tipo di dischi, se li ballo, sì, li ascolto a tutto volume, va bene, ma sono un po' troppo legati, un po' troppo, voglio dire, i video sono straordinari, sono molto legati ai video. E a volte quasi si perde il gusto, no? Dell'ascolto senza nessuna immagine. Eddie Selector. Il tema è unico. Musica. Musica che la radio gradisca. C'è della musica che non piace alla radio? Credo proprio di sì. E la musica è un po' come... Io che non cucino spesso, ma credo che sia un po' come preparare da mangiare per degli amici. Con la felicità. E, insomma, quello che poi mangiano gli amici, è probabile che raccolgano gli umori, gli amori, raccolgano le cose belle che tu hai messo dentro alla pietanza quando l'hai creata e cucinata, no? Questo è un po' il senso generale. E se no, perché stare qui a mettere musica? Per chi? Per cosa? Non avrebbe un gran senso, no? Vabbè, abbiamo cominciato a fare dei discorsi filosofici, allora a sto punto, dai, ne mettiamo una più... Sì, certo, va bene. Altra 12 corde. Uno pensa, che faccio? Metto questa canzone? Ma la conoscono tutti. E non è così. C'è sempre qualcuno che non vi ci si è mai imbattuto. Le scoperte più belle che ho fatto nella musica le ho fatte alla radio, ascoltando la radio. Certo, anche tra gli amici, scambiandoci dischi, impressioni. Però le cose che mi ricordo provenienti dalla radio, che qualcuno mi aveva presentato, che ne so, Fiorella Gentile che mi presentava Frank Zappa da Per voi giovani, mi ricordo esattamente il pezzo che ha messo e cosa c'era dopo per dire, no? E poi ho comprato quel disco e ogni volta che mettevo quell'album nelle vicinanze, nei pressi di quel brano, mi ricordavo la presentazione di colei o colui che era alla radio in quel momento. E in questo, per esempio, un programma come Rai Stereo Notte ci ha insegnato moltissimo. Lo dico già da un po', ma non ho il coraggio di farlo. Devo andare a prendere gli amici di Rai Stereo Notte e portarli in studio. E poi intorno ai nostri dischi qualcosa uscirà fuori. In fondo siamo pervasi dalla stessa febbre, dalla stessa fever, no? Dalla stessa febbre di piacevole ascolto. E costoro? Da dove escono fuori adesso? Da quale cestino dei dischi è uscito fuori questo disco? Voi pensate, qualcuno passa davanti alla radio, no? O al computer, o al... insomma, da dove ci ascoltate? Sente della musica e comincia a sorridere, a ballare, no? E già il senso di quello che tu stai facendo qui è arrivato. Suona questa canzone, no? Intorno al fuoco, sulla spiaggia. Tempi andati? Per me forse. Ecco, c'è Riccardo qui intorno a me che conosce le parole. Io lo invidio. Le canta, capito? Io non le so. E a volte neanche capisco quello che dicono. Me lo immagino attraverso la musica. E talvolta sbaglio, eh? Il concerto dal vivo di questi ragazzi è memorabile, straordinario, no? C'è una forza, una energia che traspare da questi due giovani, non più giovani, vabbè, non più giovani oggi, ma quando l'hanno fatta, quando l'hanno cantata e quando l'hanno così vista inserire in un film straordinario, insomma, è stata una bella cosa. Anche questa è una di quelle canzoncine che ogni tanto qualcuno ti richiedeva sulla spiaggia: me la sai fare questa? Allora io inventavo qualche accordo, tentavo, parole, parole, niente. A Horse We Don't Name, Edit Selector. La la la. desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. A desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. C'è qualcosa rispetto a quello che dicevo prima, no? Che queste canzoni che si trovano sulle piattaforme o le hanno rallentate, ma sono mosce. C'è qualcosa che non... No? Sarà la cuffia, dici? No. C'è qualcosa che non... Cioè, non sento il cavallo sotto, capito? Non viaggia, è come se gli mancasse dell'energia. Sì, il brano è questo, la melodia è questa. Gli manca qualche cosa, non so dirvi cosa, ma un giorno ve lo farò sapere. Anche perché di confronti di questo tipo ne faccio sempre. L'altro giorno, quando eravamo in onda con una grande amica della radio, lei mi aveva chiesto un brano e io non sono riuscito a trovarlo. Che meraviglia questa! Ho provato con un 45 giri che avevo e suonava completamente diversamente. Sì, suona meglio, è stato rimissato. Sì, non è quello. Cambia la velocità, cambia lo scorrimento del nastro, cambia l'energia e il messaggio è tutto, eh? E questo è un altro numero uno. Anche quando ho smesso di essere quattro. Stuck inside these four walls. Paul McCartney. Sent inside forever. Da un album storico che è Band on the Run. Never seeing no one. Far partire qua, non partiva da qua la canzone una volta? No, erano i Brevi DJ che la facevano partire da qua. McCartney, questo è un altro, eh? Brian Auger. Questo è una combinata di pasticci. Però ha scritto e ha suonato della musica stupenda. E questa è una cosa di Marvin Gaye, con cui Edith più o meno vi saluta. Edith in veste di Selector. Quanto mi piace. Mo se trovo due piatti le faccio sentire come missavo gli Yes dalla versione dal vivo sulla versione in studio. Cioè, io prima o poi dovrò rifarlo quel messaggio. Sono passati, era il 76, qualche anno è passato. Brian Auger, Inner City Blues. Hang ups. Brian Ogre, Edith Selector, tra poco vi saluta, Inner City Blues, però prima vorrei fare un esperimento, visto che abbiamo cominciato con una cosa, che poi abbiamo anche ascoltato, ma l'esperimento è anche un gioco. Vediamo se mi riesce. Grande, questo tastierista era straordinario, Brian Ogre. Vediamo se mi riesce questo gioco, eh? Allora, vediamo un po'. Sentite? Se fosse dal vivo, andrebbe benissimo. Senti un po'? Riccardo, metti la cuffia. E questa è la dimensione di questo disco, esattamente questa. My name is John and I'm gonna play some songs that I wrote with my band. Con questo piccolo esperimento, Edith vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi, anche in maniera casuale e involontaria. Può succedere di imbattersi in una radio anche quando non lo sai? Anche perché questa è stata una incursione totalmente improvvisa che verrà replicata senz'altro. Nel frattempo io vi saluto, vi lascio con un mattacchione dal vivo che è John Mayer e poi torniamo alla nostra programmazione notturna. Grazie per l'ascolto, grazie di avermi dato l'occasione e lo spazio di esprimermi. In questo istante sto facendo una delle cose che amo di più al mondo. Che non ho mai smesso di amare, cioè condividere musica attraverso la radio. Grazie, ciao. See the warmth of both my eyes. Maybe I will tell you all about it when I never put so close my way, but let me say you should have seen that sunrise with your own eyes in front of me. I'll go outside, just to know more three by fives. Yeah.